Con Thriller, pubblicata nel 1982, Michael Jackson batté ogni record incassi. Oltre 750 milioni i dischi che è riuscito a vendere, 13 i Grammy conquistati in una carriera iniziata quando era bambino con i fratelli Jackson 5. Una carriera segnata dagli eccessi nel bene e nel male, conclusa quasi per coerenza in modo tragico e inatteso. È morto di infarto, quanto si sa, nel primo pomeriggio di ieri all'Oakland Medical Center di Los Angeles, dopo essere stato colto da un malore nella sua casa di Beverly Hills. Oggi verrà effettuata l'autopsia e la polizia ha aperto un'indagine. I fan certo non pensavano di perderlo così presto, a soli 50 anni, ad un mese dall'inizio di un tour mondiale che lo avrebbe probabilmente riportato alla ribalta e per il quale erano già stati venduti biglietti per 85 milioni di dollari. Per prepararsi a quel ritorno sulle scene si allenava 6 ore al giorno. L'eccessivo stress su un corpo già debilitato, forse la causa della morte, ma qualcuno già parla di droga, di eccesso di farmaci. Una vita complicata la sua, difficile, segnata da contraddizioni e da macchie che faticava a cancellare. È stato imputato in un processo per presunti abusi su un minorenne, accusato di desiderare troppo la compagnia dei bambini. L'assoluzione gli aveva fatto evitare il carcere, ma la vicenda, le accuse infamanti, avevano contribuito a danneggiare la sua carriera musicale e il suo portafoglio. Oggi i giornali americani parlano di 400 milioni di dollari di debiti a causa della sua vita costosa e un po' bizzarra. Il suo viso era ormai riconoscibile a causa dei tanti interventi chirurgici e schiarenti della pelle. In pubblico portava una mascherina per difendersi da eventuali virus di cui aveva il terrore. Sperava di vivere per sempre grazie alla sua campana di vetro. Vivrà di certo per sempre grazie alla sua musica. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore.